Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Non bisogna avere paura dei libri, anche quando toccano temi dolorosi o drammatici. L'amore che mi resta, di Michela Marzano, pubblicato da Einaudi, parla di suicidio. Il suicidio di una ragazza di 25 anni, Giada. Il romanzo è narrato dal punto di vista della madre, Daria. Presa dalla disperazione, si fa ovviamente tante domande. Perché l'ha fatto? Come ho fatto a non rendermi conto della sua sofferenza? Giada, fra l'altro, era stata adottata e Daria aveva pensato che il suo amore potesse compensare il senso di abbandono che accompagnava la figlia da sempre. L'amore che mi resta è un romanzo di grande profondità. Parla sì di suicidio, come dicevamo, ma parla anche di maternità e di adozione vissuta come strappo, abbandono, necessità da parte di chi è stato adottato di scoprire le proprie radici. Questi temi vengono trattati da Michela Marzano, che è una filosofa, saggista, in questo caso al suo primo romanzo, con grande intelligenza e competenza. E sensibilità, aggiungerei, anche perché, come lei stessa ha dichiarato, questo romanzo nasce da un episodio della sua vita, cioè quando 20 anni fa aveva tentato il suicidio. Ma perché, appunto, a distanza di così tanti anni, ha deciso di riprendere, diciamo, quell'argomento e scriverne un romanzo? Sentiamola. Perché ci ho messo tanto tempo prima di riuscire intanto a prendere distanza rispetto alla mia storia. Poi a trovare la forma giusta, questo è il mio primo romanzo e ci ho messo un po' a capire che volevo e che dovevo passare anche per una fiction, perché lo spunto è autobiografico, ma poi la storia è interamente di invenzione. Io non sono Giada, non sono Daria, non sono Paolo. Certo, come talvolta capita, sono anche un po' in vari personaggi, però non è la mia storia. E poi perché ci ho messo proprio tanto a trovare le parole per dirlo. È un libro che, a differenza dei saggi che ho preso ormai l'abitudine di scrivere anche abbastanza velocemente, questo libro io ho messo 4 anni per scriverlo, perché non era esattamente quello, ci voleva quella parola e non quell'altra, bisognava che io riuscissi a entrare all'interno del personaggio di questa madre, io che madre non sono, e in più una madre che ha perso la figlia. Quindi si trattava veramente di riuscire a immedesimarmi in un personaggio che vive forse quello che è il dolore più straziante, e quindi riuscire a trovare le parole per attraversare questo vuoto, per riavere di nuovo la forza di parlare. Basti pensare al fatto che non esiste nemmeno il termine per nominare una madre o un padre che hanno perso un figlio. Quando si perde un genitore si è orfani, quando si perde un marito, una moglie, un compagno, una compagna si è vedovi o vedove. E come si dice quando si perde un figlio? Non c'è nemmeno il termine per qualificare questo stato. E quindi con quali parole raccontare quando si trova la forza di ricominciare a parlare? Come attraversare questo vuoto? Si può farlo? Con quali mezzi? Appoggiandosi su cosa? E quindi c'è stato tutto un lavoro anche interno proprio per la costruzione del personaggio, per toccare fino in fondo questo dolore e per restituirlo, aprendo anche uno squarcio di luce alla fine. Tu hai detto non sei madre, invece hai voluto raccontare questo libro, narrare questo libro in prima persona dalla parte di Daria, che è la madre. È chiaro che tutti un po' possiamo arrivare a pensare come possa sentirsi una madre nel momento in cui non solo un figlio muore, ma un figlio si toglie la vita volontariamente e lei non si accorta praticamente di nulla, non si accorta di quello che stava accadendo. Ecco, tu come hai fatto ad entrare proprio nello spirito di Daria, a porti le sue domande, che poi sono domande anche spesso ossessive? Non mi sono accorta di nulla, cosa le mancava, il mio amore non le è bastato? Sì, perché poi tutto gira intorno alla questione del senso di colpa. C'è stata anche una lunga frequentazione di mamme, papà, fratelli e sorelle che avevano perso una persona cara, perché avevo bisogno proprio di sentire le loro parole e il loro dolore. E il senso di colpa è in realtà trasversale, indipendentemente da come si è perso un figlio o una figlia. La mamma che si rimprovera di aver comprato il motorino alla figlia, il papà che si rimprovera di non aver fatto fare tutti gli esami cardiaci al figlio che muore durante una partita di tennis per una malformazione. Questi sensi di colpa sono presenti. Naturalmente, quando poi un figlio si toglie la vita, una figlia si toglie la vita, c'è un senso di colpa supplementare, perché ci si rende conto che non si è capito. E quindi si trattava di raccontare questo non si è capito, anche per sciogliere questo senso di colpa. Io dico talvolta che il libro che avrei, ho cercato di scrivere il libro che avrei voluto che mia mamma leggesse se io 20 anni fa me ne fossi andata via. E mi sono accorta pian piano che era proprio sciogliere quel senso di colpa, cioè dire a mamma, mamma, non è stata colpa tua. E non è stata colpa tua perché nel tuo modo di essere mamma con me, a tua volta, tu eri figlia. Non è un caso che questo romanzo si gioca su 3 generazioni, c'è la nonna, c'è la mamma, c'è la figlia, proprio perché ogni mamma cerca di dare molto probabilmente ai figli quello che non ha avuto, che avrebbe voluto ricevere, mentre non è forse quello esattamente di cui hanno bisogno i figli, che poi è quello che ci racconta Jacques Lacan quando dice amare significa dare quello che non si ha a chi non lo vuole, questa forma di incomprensione che talvolta fa parte dell'amore nonostante le mamme cerchino poi di essere perfette. Forse l'unico errore di Daria è stato quello di immaginare che il proprio amore avrebbe potuto risolvere i problemi della figlia, salvare la figlia, riparare la figlia, mentre in realtà ognuno si salva da solo, che detto così può sembrare anche brusco, però è vero, non può essere l'amore della mamma, del papà, del figlio, del compagno, della compagna che possono mettere, calmare quel vuoto che ci portiamo dentro. Dobbiamo fare i conti ognuno con i propri vuoti, con le proprie mancanze, con le proprie fragilità. Infatti Daria si domanda spesso, insomma, perché il mio amore non è bastato a salvare mia figlia. A questo proposito avevo sottolineato proprio 2 righe che tu hai scritto nel romanzo a proposito dell'amore. L'importante è accogliere, è questo l'amore, che non ripara niente, ma accetta, non basta mai, ma soccorre. Come si fa ad accettare, proprio da esseri umani, che il proprio amore non sia sufficiente? Come madre, come compagna, come sorella, come amica? Non è facile, anzi forse è la cosa in assoluto più difficile, perché si tratta di accettare i propri limiti. E siccome la tendenza che noi abbiamo tutti e tutte, credo, è un po' la tendenza al delirio di onnipotenza, cioè di sentirsi responsabile per qualunque cosa, di immaginare che si possa controllare la realtà, controllare l'altra persona. Le mamme che dicono io ti eviterò tutti quegli errori e farò sì che tu non viva quella sofferenza che io ho vissuto. Questo talvolta capita, però forse è proprio questo il problema. Amare non permette di salvare, però invece permette di dare, quando si è piccoli soprattutto, ma anche quando si cresce, di aiutarci a tenerci su, cioè non a evitare i problemi, ma a dare gli strumenti tali che permettano poi eventualmente di affrontare i problemi e di attraversarli. Però per questo deve essere un amore che riconosce l'alterità. Riconoscere l'alterità dell'altra persona, del figlio, della figlia, del marito, della compagna, cioè quell'alterità con la quale talvolta noi abbiamo difficoltà, perché l'alterità è la cosa che ci disturba di più a noi stessi. Freud parla dell'inquietante. Tutte le volte che siamo confrontati all'alterità ci rimettiamo in discussione perché vorremmo che l'altro fosse identico a noi, mentre in realtà l'altro non è mai identico a noi. Ed è qui che interviene poi l'amore, che di fatto, che poi anche l'amore che resta, che è il titolo del romanzo, è il riconoscimento. Io ti riconosco per quello che sei e non per quello che saresti dovuto essere. Io riconosco i miei limiti e riconosco che fin qui sono potuta andare insieme a te e qui mi sono dovuta fermare per poi ripartire e creare nuovi legami e nuove relazioni. Questo è un romanzo bello, intenso, doloroso sicuramente, ma io ho provato anche alla fine proprio un senso di accudimento, forse è questo senso di amore che tu cercavi di far capire anche al lettore. È un romanzo, abbiamo detto, sul suicidio, è un romanzo sulla maternità, è anche un romanzo sull'adozione, perché Giada è stata adottata da piccolissima, aveva solo 6 mesi. Anche l'adozione, tu proprio l'analizzi dal punto di vista della psicologia di chi viene adottato e lo vedi e lo identifichi come strappo, come incapacità di conoscere le proprie origini. Questa è una cosa così importante secondo te per le persone? Allora, intanto quando si parla di persone che sono state adottate, quasi tutte sentono l'importanza di capire il perché dell'abbandono o perché sono stati lasciati, perché poi di fatto quando si parla di accesso alle origini non è la conoscenza delle origini biologiche, ma il perché, che cos'è che non andava, che ha fatto sì che mia mamma o mio papà non abbiano assunto la responsabilità della maternità o della paternità. Dopodiché la questione dei perché, del non essere all'altezza, dello strappo e del senso della vita, cioè la questione dell'identità ce la poniamo tutti e tutte. C'è un'immagine che torna spesso nel romanzo, che è questo puzzle che Giada ama molto fare, però Giada non sopporta il pezzo mancante, tant'è vero che a un certo punto decide di costruirlo da sola questo pezzo. E per me è un po' una metafora dell'identità di ognuno di noi, cioè a tutti manca un pezzo. Per ognuno di noi ci sono dei perché senza risposta, tant'è vero che in questo romanzo io cerco proprio di raccontare come ci si sposta pian piano, soprattutto quando si è confrontati a un dolore molto forte, dal perché al quale non c'è una risposta, al come fare per ricominciare, come fare per convivere, come fare per evitare che quel buco sia poi una voragine all'interno della quale io possa sprofondare. Infatti c'è un certo punto in cui la madre Daria inizia a incontrare una psicologa e le dice: il punto non è perché vivere, perché continuare a vivere, ma come continuare a vivere. Questa dà un po' la chiave di volta e di svolta nella vita di Daria. Questa è la chiave di volta e di svolta nella vita di Daria e probabilmente è forse il pezzo più autobiografico, nel senso che io che ho attraversato un periodo di grande difficoltà e ho fatto tanti anni di analisi, che cos'è che ho capito? Che quei perché che mi tormentavano dovevano smetterla di essere delle domande lancinanti, perché l'unico modo per ricominciare a vivere era proprio quello di spostarmi dal perché al come. E quindi è proprio questo in realtà il messaggio che io lascio attraverso questo romanzo e attraverso i vari personaggi. Questo romanzo, dicevamo prima, parla anche di maternità, perché appunto Giada è stata adottata, quindi sente lo strappo di essere stata abbandonata da una madre, ma nello stesso tempo il suicidio di Giada fa porre a Daria tante domande sul suo essere madre, ma anche sul suo essere figlia, perché di fatto la costringe, la mette davanti a uno specchio ad analizzare il suo rapporto con la madre. Come mai hai assunto anche questo punto di vista? Perché hai messo insomma tanta carne al fuoco dal punto di vista emotivo. Ne ho messa tanta, ma perché quello che volevo proprio raccontare è proprio su come su varie generazioni, su più generazioni, noi ci portiamo dietro una storia che spesso è pesante. Allora, quando dico pesante è che poi ha anche delle conseguenze. In fondo Daria, quando adotta Giada, la sua idea è quella: la mamma arriva e si aggiusta tutto. Tant'è vero che quando parla la prima volta con i servizi sociali, di fronte alle domande dell'assistente sociale che dice: guardi, questi bambini talvolta sono complessi, difficili, hanno vissuto delle storie dolorose, lei non capisce, reagisce dicendo: ma questa cosa sta dicendo? Basta l'amore, l'amore basta. E sarà poi pian piano e progressivamente che si renderà conto che no, l'amore non basta, e che non è che siccome lei si è sentita poco amata da sua mamma, amando tantissimo fino al soffocamento sua figlia, avrebbe evitato i problemi che lei stessa aveva. Inevitabilmente, quando molti parlano di questo tuo romanzo, pensano alla cosa principale, cioè alla madre che soffre per il suicidio di una figlia. Il suicidio è un tema molto difficile. Le persone, i lettori hanno anche difficoltà a volte ad approcciarsi, ma anche normalmente nella vita quotidiana si ha difficoltà a comprendere il perché. Quando si sa che una persona si è tolta la vita, ci si domanda sempre: ma come, aveva tutto, aveva un bel lavoro, aveva una bella famiglia, era felice, perché l'ha fatto? Anche qui è sbagliato chiedersi il perché. Per certi aspetti sì, perché il perché in realtà non lo si saprà mai. C'è anche una parte di mistero che riguarda la vita di ognuno di noi. Ognuno si porta dentro delle fratture e delle sofferenze che non sono necessariamente evidenti, evidenti agli altri, e talvolta non sono nemmeno evidenti a noi stessi. Ciò detto, per me era anche importante affrontare questo tema, intanto perché è una questione che tocca molte persone, molti adolescenti, molti giovani, e che lascia senza parole. E io credo che sia anche arrivato il momento di interrogarsi non sul perché si suicidano, ma cosa posso fare eventualmente io per accompagnare una persona ed evitare una catastrofe. In realtà c'è anche la voglia di prevenire, trattando, nonostante il punto di partenza di questo romanzo sia la morte. Io ne discutevo, ho detto, ci ho messo 4 anni per scriverlo, ne discutevo col mio papà, che tutte le volte mi guardava e mi diceva: ma lei alla fine si salva, vero? E io gli dicevo: no papà, lei è morta. Questo è il punto di partenza del romanzo. E lui tornava: ma lei alla fine si salva. Proprio c'era una non accettazione del fatto che potesse essere questo il punto di partenza. È il punto di partenza, ma per raccontare altro, per raccontare come si attraversa questo dolore, come ci si sposta dal perché al come e come forse le mamme e i papà dovrebbero provare a riconoscere i propri limiti e a non immaginare che l'amore salvi necessariamente per definizione i figli. Quando si pensa al suicidio, si pensa che una persona vuole morire. Secondo te è voglia di morire o è voglia di non essere, quindi di non provare più un dolore? Sembra a volte una distinzione forse filosofica, e quindi lo chiedo anche ad una filosofa, però c'è una distinzione anche sostanziale fra questi due punti di vista? Sì, io credo che ci sia una distinzione, perché tante volte dietro un suicidio c'è il basta, non ce la faccio più, voglio mettere fine a questo dolore. Naturalmente c'è poi anche un legame rispetto alla vita, perché il problema è che tante volte la vita è un problema. È la vita che fa stare male, è la vita quindi che si deve interrompere. Naturalmente per poter uscire da questo circolo vizioso, encore faudrait-il, come si dice in Francia, ancora bisognerebbe capire o scoprire o immaginare o toccare la possibilità della gioia all'interno della vita. Solo che se nessuno ce l'ha insegnato, se nessuno ce l'ha mostrato, se nessuno ci ha permesso di entrare in contatto con questa gioia, si è schiacciati dal dolore, e allora il suicidio è solo mettere fine a quel dolore che ci schiaccia. E questa era Michela Marzano, autrice del romanzo L'amore che mi resta, pubblicato da Einaudi. Una breve pausa, poi torneremo a parlare di libri. Il cacciatore di libri. E parliamo ora del premio Campiello, perché il 26 maggio a Padova la giuria dei letterati ha scelto i 5 finalisti. Come sempre c'è stata una seduta pubblica della giuria, durante la quale gli esponenti del mondo della cultura hanno indicato i romanzi, spiegando appunto perché li hanno scelti. Allora, vediamo un po' chi è entrato in finale. Qualcosa sui Lehman di Stefano Massini, pubblicato da Mondadori. La città interiore di Mauro Kovacic, pubblicato dalla Nave di Teseo. La notte alla mia voce di Alessandra Sarchi e Einaudi. L'Armenuta di Donatella Di Pietrantonio, ancora Einaudi. La ragazza selvaggia di Laura Pugno, pubblicato da Marsilio. Presidente della giuria dei letterati, che cambia appunto per tutte le edizioni, quest'anno è l'attrice Ottavia Piccolo. Intanto non ci sono state nessun tipo di tensione, ma davvero eravamo tutti d'accordo, ovviamente ognuno con i suoi libri preferiti. La maggior parte però, perché la sera prima ci eravamo dette alcune cose e più o meno abbiamo tutti mantenuto le cose che avevamo detto, e la cinquina rispecchia esattamente le cose che ci eravamo detti, e quindi perfetto. Non abbiamo avuto pressioni, perlomeno non pressioni da qualcuno, penso che sia stato avvicinato, ma normalmente, insomma, una cosa giusta. Io tra l'altro avevo due titoli di amici, uno è Stefano Massini, che è quello che è entrato in cinquina, l'altro era Roberto Alaimo, che mi dispiace non sia entrato perché ha scritto un bellissimo libro, però succede. Però a nessuno dei due avevo raccontato niente, ovviamente, anche se li ho visti in questi ultimi giorni. Ho detto: non saprete nulla da me, quando sarà sarete avvertiti, quindi ecco. Che criteri ha usato per scegliere appunto i suoi 5 libri? Ma diciamo che io sono una lettrice normale, leggo i libri che mi piacciono, sono onnivora. Qui ovviamente sono stata, diciamo, indirizzata a leggerne con attenzione alcuni piuttosto di altri, insomma. Oddio, ho usato piuttosto, che brutta cosa, però ogni tanto viene, ormai ce l'abbiamo nell'orecchio, va bene. Insomma, un libro mi deve piacere non solo per l'argomento, perché molto spesso c'è, come dire, il ricatto dell'argomento. Se l'argomento è un argomento importante, uno dice: beh, vabbè, però va bene. E invece no, perché la forma, la lingua, la struttura è importantissima, insomma, la forma è anche una parte del contenuto, quindi per me è importante anche quello. E siccome con le parole ci lavoro, ho notato tra l'altro che quelli che abbiamo scelto nella cinquina hanno tutti un buonissimo rapporto lingua-argomento. Ecco. Un'ultima domanda, che rapporto lei ha proprio personalmente con i libri? Ma io, allora, sono una, come posso dire, una neofita, perché non ho fatto nessuna scuola, ho cominciato a lavorare che avevo 11 anni, quindi ho fatto fino alla terza media, quindi ogni tanto sento la mancanza di certe basi, e allora tutto quello che leggo mi è sempre servito, da sempre, per, come dire, crescere anche come persona. Quindi per me il libro è una cosa sacra, non gli faccio le orecchiette, non gli scrivo sopra le cose, perché per me il libro è un oggetto, tanto è vero che io non riesco a leggere sul Kindle, non riesco, per me il libro è quella roba lì cartacea, che lo devo vedere e sentire. Poi è chiaro che andando in giro magari è più facile portarsi le cose sul computer, però per me il libro è quella cosa. E leggo, in genere leggo di pomeriggio, perché sennò la sera uno si addormenta sul libro, leggo di pomeriggio, mi ritaglio un paio d'ore per leggere praticamente tutti i giorni. Questa era Ottavia Piccolo, che presiede la giuria dei letterati per questa edizione. Ora a decidere il vincitore finale del campiello sarà una giuria popolare di 300 lettori che cambiano ogni anno. Il vincitore sarà annunciato il 9 settembre a Venezia. Da ora e fino appunto a questa data la cinquina sarà in tour con incontri in varie parti d'Italia. La cinquina sarà per esempio a Milano, Catania, Sanremo, Gubbio, Modena, Asiago e Jesolo. Quello che si sa invece di certo è il vincitore del premio Campiello Opera Prima, riconoscimento che è stato attribuito a Francesca Manfredi per il romanzo Un buon posto dove stare, pubblicato dalla Nave di Teseo. E per quanto riguarda i festival culturali, segnaliamo stavolta che a Cagliari il prossimo fine settimana, da giovedì 8 a domenica 11 giugno, ci sarà Leggendo Metropolitano, Festival Internazionale di Letteratura. Tema di questa edizione, che è la numero 9, è Fra la memoria e l'oblio. Su questo si confronteranno oltre 70 personalità del mondo scientifico e culturale. Ci sarà per esempio l'astrofisico Andrea Possenti, i neuroscienziati Costanza Papagno e Alberto Oliverio. Ci sarà anche il presidente del Senato Pietro Grasso. Fra gli scrittori Lirio Abate, che è un giornalista più volte minacciato per le sue indagini sui rapporti fra mafia e politica. Il premio strega Edoardo Albinati, Carmine Abate, Caterina Soffici e Gianni Biondillo. Tutte le informazioni per sapere insomma chi ci sarà a questo festival sul web, naturalmente leggendometropolitano.it. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Peter Bescapè e Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. E se volete sempre essere aggiornati potete seguirmi su Twitter o sulla pagina Facebook del programma Il Cacciatore di Libri-Radio24. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.